Marco, sei a casa? Aia. Sì. Ciao Nico. Aia. Non c'è nessun canale, dai. Una serata così. Io il giretto l'ho fatto stamattina, il giretto turistico, tra virgolette. E sono a casa a rilassarmi. No, è qua. Purtroppo, vedi, c'è questo spinotto, è stato fatto male, non so come mettere rimedio, è sottodimensionato rispetto alla presa microfonica, dai. Sette e mezzo, radio 4, buona dopo tutto. Usando il portatilino sempre, ok, io sto usando un mic originale della radio che però è un po' vile, ha una modulazione leggermente, come dire, un po' barattolata, non è perfetto, dai, ha una capsula economica, però il microfono l'ho bloccato, il cavetto, è strano, lo controllerò. Vediamo un po', 1, 2, 3, prova, test, 1, 2, 3, non lo so di cosa c'è. E al momento, oddio, e ne aprì ma sono sotterrati negli armadi. Giulio, se entra lo senti per forza, è che non, magari non sta modulando. Proviamo a chiamarlo. Giulio, c'è l'ascolto. Giulio sta entrando poco, sta entrando abbastanza poco. Anche lui magari sta un po' stufando, non lo so. Anzi Nicola, proprio perché c'è talmente tanti anni, sarà 40 più anni che magari ne ha le tasche piene. Ecco, vediamo un po' di autoascolto, 1, 2, 3, ho messo un microfono tipo DMC 507, dimmi se ha migliorato oppure c'è qualcosa all'apparato. Allora, vabbè, l'autoascolto non serve. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Microfono DMC 507 Lafayette. Vediamo un po' come va. No, negativo. Scomparso del tutto. Eia. Ciao Nicola, ci sentiamo. Dai, buon proseguimento di serata, buon tutto. Alle prossime, ciao. Marco, è questa modulazione? Già, mi ha detto Nicola che non sta andando bene. Io mi autoascolto, ma non riesco a capire come sto uscendo. Non... capito, non sento la mia voce in diretta, cioè non riesco a capire come sto uscendo. Elenca i difetti, dai. No, a parte il falso contatto poco fa, si sentiva praticamente la modulazione che veniva interrotta, sembrava tipo falso contatto, roba del genere. E questa rispetto al tradizionale suono del 3009 risulta un po' più mediosa. Mediosa, toni medi? No, ma è gracchiante, strappata. Cioè, questo è un modulatore diverso, è un apparecchio diverso, questo è un 5005. E il mic è originale. No, la radio è perfetta. Soltanto che rispetto alla solita, tipo 3009, risulta un po' più mediosa. Eia, Vediamo se riesco a togliere l'autosquelce qua. Cosa ho combinato? Ah, ce l'ha, sul microfono ce l'ho l'autosquelce. Vabbè, dopo lo tolgo, dai. Sì, questo è un microfono a saponetta, tipo quelli Midland, quegli Intec, no? BMC 507, oppure 4190 è Midland. L'altro ha una capsula ancora più scarsa, Gianni. E poi gli hanno fatto questo spinotto a quattro poli, proprio quasi, non quasi, molto sottodimensionato, balla proprio. E beh, la Intec quando fa cose le deve far male, se no non è contenta, capito? Vediamo se migliora ulteriormente mettendo 4 watt. Non voglio far prove, non voglio però stare a fare prove tutta la sera. Allora, 4 watt, in teoria 4 watt, poi vabbè il filtro me ne mangia mezzo. Ha migliorato qualcosa? Uguale a prima, uguale, non ha cambiato assolutamente nulla, Marco. Ah, comunque vabbè, l'apparecchio non si mangia la radio, allora, tanto vale metterne 10 di nuovo, qualcosa incremento in lontananza. E Nicola era ai punti, stavano facendo roba, io il giretto me lo sono fatto stamattina, stasera non voglio sapere niente, non voglio sentire niente, sono qui stravaccato e buh. Aspetta che provo ad attenuarti, vediamo un po' come ti dicevo, eh. Oh, comunque mi fido, cioè, se la modulazione è normale, è certo che l'unica cosa per autoascoltarsi è mettere un baracchino nell'altra stanza, con un chiodo, con antenna, un cacciavite, qualsiasi cosa al limite, e registrarsi con un registratorino di qualità, tipo Olympus, Sony. Naturalmente anche l'apparecchio che riceve deve avere una ricezione pulita, no? Non plasticosa, né acuta, né troppo bassa. Eia, sì, rispetto al 3009 col mic originale risulta più mediosa questa, dai. Più sui toni medi, più marcato. Poi si sente la mollettina del PTT, clic, clic, clic, si sente qualche scricchio. E poi io ho Parkinson, quindi sto sempre a muovermi, non so i muovimi. Senti. Anzi, una volta ballava anche la capsula qua, vediamo. No, forse l'ho fissata. Ballava, no? Facevo. Ballava la samba. Ehi, sferragliava, dai. Ehi, credo di aver messo una spugnetta, ma non mi ricordo nemmeno di averlo fatto. Ballava, si muoveva proprio. Ehi, vabbè. E quindi già. La serata è bella, però io sono già uscito, non è inutile stare a fare quei soliti posti, soliti luoghi, nelle balle piene. Senti, un break avanti. Allora, questo è lo smitter a LED, se hai pazienza un attimo te lo do anche con lo smitter a lancetta. Premi la portante muta, dopo 2 secondi inizia a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, prova, 7:30, 8, dai, 7:30 e 8, sì, siamo lì. E allora ne approfitto e vediamo la prova comparativa del segnale. Stavo sentito sul 30, qui il segnale non è male, sì, praticamente 8, modulato. Praticamente 8, io non ho il termine di paragone, non so quanti watt tu stia usando, ma non è malvagio il segnale qua. Riprendi Gianni che cambia apparato. Ehi, ciao Franco, buonasera, anche qua Santiago 7 oscillante da me, alle mie coordinate, non so se sei a QTH ufficiale o poi sei da un'altra parte. No, sono QTH a campagna, lo sono a certo io. K, ok, sì, vabbè, già, ti dicevo, non come segnale ufficiale, un po' più basso, però già va bene, uguale, dai. Eccomi, questo è il 3009. Una che la guba, è il 3009, vabbè, EPT 3006 vincente. Comunque se mette l'MB più 5 o più 4 non è male il 5005. È che io sono legna verde e mai che da tavolo non ne uso. Sì, comunque Franco è come l'altro Smitter, 8 modulato, 8 modulato. Aspetta un po', test, eccomi, sì, 1, 2, 3, sì, sembra già più ricca la modulazione, anche per il poco che posso sentire qua in autoascolto. No, è molto più bella questa, Marco, molto più calda rispetto a quella di prima, dai. E vediamo Franco che se sta cambiando antenna, se, perché adesso non so se abbia la... quella frusta, come si chiama? Uffa, vabbè, chiama pesca, me lo puoi chiamare, oppure si è messo la boomerang, vediamo. E tu già, ma tu Gianni eri il mezzo di trasporto, ce l'avevi? Adesso non mi ricordo se la moto serve risolto, serve una macchinetta per così per uscitine. No vabbè, la moto è ferma purtroppo sotto casa, la macchinetta è... bisogna fargli dei lavoretti, adesso vediamo un po', ce la fai un bel tagliando completo e cambiargli gli ammortizzatori dietro. Ehi, devo stare attento a non sbagliare mai, che se no brucio tutti gli apparati, brucio l'apparato. Va bene. Franco? Guarda adesso come sto arrivando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. Allora, Franco, ho messo lo Smitter a lancetta, 6, Santiago 8, pieno, comunque 8, 8 e mezzo modulato. E il capo già va bene, siamo in zona di campagna, va più che bene. Ehi, ti dicevo, ma stai usando quella... la canna, la frusta, come la vuoi chiamare, o la boomerang, perché ho sentito prima che il segnale non era, non vi sentivo a te tanto bene, al 30. Allora, adesso sto usando la frusta, quell'antenna costruita con la canna da pesca. Sì, io, vabbè, non ho il termine di paragone, fra, comunque qua è buono, non so i watt, guarda, io sto usando 3 watt e mezzo, 3 watt e mezzo effettivi e boh. Marco, stavo dicendo, Marco, ma con la boomerang più forte ti è arrivato? Ma io non l'ho vista la boomerang, non me la ricordo il segnale tuo con la boomerang. Però, oddio, quello è pur sempre 5 ottavi, non credo che qualche dB in decibel in più dovresti averlo rispetto alla boomerang. Poi, tutto è possibile, mi fra. Ma tu non la puoi provare adesso? Sostituire al volo, no? Cosa, Marco? Tu non la puoi sostituire al volo e fare la prova, no? No, devo scendere attorno a tutto, Marco, è un casino, capito? Ehi, comunque QRM qua non ne ho. QRM non ne ho e arrivi benissimo, demodulazione arrivi non bene, ma benissimo. Quindi qua problemi non ce ne sono. La campagna tua adesso non so quanto sia lontana, ma sembra buono il segnale. A Maccia dagli Astru, zona bassa di Maccia dagli Astru, so, capito? Maccia dagli Astru, ma tipo ai lati di Monteoro? Più bassa, anche più lontano di Monteoro, ancora molto, molto più basso. Beh, se sei più basso allora direi che va bene. Direi che va bene. E non ho particolari ostacoli, vabbè, c'è Monteoro un po' blocco. Quindi qua potrei dire che nella norma, Gianni, cosa ne dici tu? Il segnale quanto ti arriva a te, Franco? Quasi 8, dai, oscillante, 7,5-8, dai. 7,5-8, ok, dai, allora dovrebbe andare bene per la zona dove sono, che sono in un posto, dovrebbe andare alla grande. Ehi, ci vorrebbe il, come si chiama già, il coso di confronto, uffa, non mi vengono le parole. Il termine di paragone, per vedere se l'antenna sta lavorando bene. Ci dovrebbe essere una stazione molto molto vicina e fare le prove. Se si watt, però non si può. Oia. No, arriva bene. Vabbè. Bisogna andare, già siamo vicini. Sì, quanto sarà? Io, ma c'era gli altri, io non ce l'ho presente là. In linea d'aria quanto sarà in chilometri? Beh, latte di Monte Oro pochi, pochissimi comunque. C'è tutto piena d'aria, che cazzo, sai, uno fa pensare i chilometri e li misura tramite tramite percorso stradale. Piena d'aria è un po' più difficile perché mancano i riferimenti lungo, dei riferimenti ben precisi, qualche chilometro dai. Eia, poi se è quella che penso io, tipo la strada vicinale prende quel nome, è molto lunga, la strada vicinale Macera agli Astri, è un bel lunga. Vabbè, comunque siamo lì, dai. Va bene. Ma c'era qualcuno sul 30? Ma due ore fa, quant'è? Un'ora fa, un'ora e mezza, due. Ma una prova stavano facendo tra Trattino e Franco, e Trattino stava cercando di tirare il collo a collineare, che però più di tanto non rende, non riesce ad andare, d'altronde se le valvole non sono al 100%, di più non puoi spremere, per quanto scaldino. Cappa. Insomma, non gli vuole tirare il collo, alla fine se glielo tira troppo smette di respirare. No, ma le valvole già, quando scaldano già spingono, però se sono abbastanza un po' consumate, usurate, più di tanto non va, almeno non riesci a darli costanti, eccetera. Vabbè, che te devo dire? Chissà quante ore c'hanno di funzionamento, perché dopo un tot piano piano vanno a calare. Io non so quante ore di funzionamento abbiano le valvole prima di calare notevolmente, non mi intendo di quella roba lì, soprattutto roba dei lineari, mica, sai, roba che lavora, presumo, bella limite. Guarda, ti faccio un esempio, ci sono determinate lampade alogene professionali che hanno una durata ben specifica, no? Che è misurata in ore, bene più o meno anche come la lampada. Le lampade dei videoproiettori professionali, no? hanno praticamente una vita limitata misurata in ore, e probabilmente per le valvole è più o meno la stessa cosa, dai. Quindi dopo un certo tot di ore di funzionamento piano piano va, cioè ti mollano. Lì è proprio ancora più accentuata la cosa, dai. Aspetta, cosa sto facendo? Sì, già sono qua. Adesso faccio una breve prova. Insomma, il 3009 a livello di modulazione, parlo per me personalmente, lo reputo migliore sia di quello che stavo usando prima, anche della, cosa c'è l'altro, cos'è, un President McKinley, cos'è, vanno a mente. Intec HR 5005 sarebbe il CRT 6900, però malgrado Intec il display è rosso anziché blu. Ecco, questo è il DMC 507 con 3009, è lo stesso microfono che avevo messo sul 5005, ma penso che sia una cosa identica. Poi se non sei in cuffia non te ne accorgi delle variazioni, credo. No, negativo, Marco, il microfono gli dà quella timbrica, è proprio il microfono che gli dà la timbrica mediosa, sì, e il mic, l'altro è decisamente molto meglio. È proprio il mic, e quindi gli dà una timbrica mediosa e tediosa. Sì, è proprio molto ricca di medi, molto ricca di frequenze medie, sì, è proprio il mic. Cacchio, non l'avrei mai immaginato. Questo era uno dei migliori. Aspetta, prova, test, 1, 2, 3, io non fa l'autoascolto, non serve a niente. Ma il mic regione 3009 sul 5005 non ci sta? Non lo posso mettere già. Dovrei dissaldare un filo, perché altrimenti mi va in corto l'alimentazione che arriva su un pin. Il 5005 c'ha, mi pare, l'alimentazione per quelle cavolate, mi tasti up down. Questo c'ha solo, praticamente non ha la ricezione qua, non ha il filo della ricezione che in certi apparecchi vecchi serviva. quello originale lo vorrei lasciare originale, però sicuramente, come prevedi tu, migliorerebbe anche la modulazione della, del 5005 K. Sì, è proprio il mic che è medioso, Marco, è proprio confermato alla grande. Adesso, se avessi saputo, ti registravo e ti facevo sentire la differenza. E dopo lo faccio con calma. Siccome l'alimentatore ne ho due, metto in camera l'alimentatore, un baracchino che abbia una ricezione buona, e uso il registratorino della Sony, quelli, sai, quelli digitali piccoletti, e faccio un, chiudo la porta, faccio alcuni passaggi, metto il Vox in modo che si attivi con la modulazione, voglio sentire proprio la differenza tra l'uno e l'altro, lo farò poi stanotte con calma. Eia, eia, no, si sente la differenza, ti ripeto, io preferisco l'altro. Eia, va bene. Franco, ci sei ancora? Presto ancora, e poi vediamo se devo pulire anche una cosa, mannaggia. Quindi, microfono medioso, buono a sapersi. Invece quello della Midland, mi pare si chiami il 4190 il modello, anziché avere il guscio della capsula metallico, un guscio della capsula plastico, e gli dà appena appena di toni più bassi. È buono a sapersi. Mi sarebbe piaciuto averlo per ricambio e così, per migliorare un po' la modulazione del 5005. E tu conta una cosa, anziché qua il trimmer è quello da omologato, no? Il trimmer della M. Mentre sul 5005 il trimmer è pure aperto. Ma l'hai toccato? Nel 5005, naturale, era chiusissimo, era proprio chiuso, non uscire di radio, no? Era necessario intervenire, ma trimmer microscopici già. Pensa che uno, vabbè, incontinente, per quanto sia stato accorto nel regolare l'ha rotto, gli è saltata la testina del trimmer, la parte che ruota me. Ho capito, yes. Adesso sono fatto stracubarato, per carità. Sì, e poi io, vabbè, tutti questi vantaggi dell'SMD, dice che ci hanno meno tolleranze, tante menate ho sentito. Fatto sta che due apparecchi di questi SMD nuovi in macchina innescano. L'ho provato con la base magnetica, l'ho provato con la massa effettiva, ho provato a ridurre i watt, ho provato a ridurre il mic gain, niente, innesca. C'è dei rientri che non so da dove rientrino, se dal cavo del mic o dall'alimentazione. Io credo dall'alimentazione perché il cavo di alimentazione è molto lungo. Io l'ho lasciato bello comodo che arrivasse sotto il sedile del passeggero, però secondo me i rientri sono da lì. E comunque dei cattucci, per esempio il 3009 problemi di rientri non ne ha mai avuto, fischi, fiaschi, niente. Il 3009 è il migliore da mettere in macchina, è più silenzioso, è meno rumoroso, gli altri sembrano delle friggitrici in determinate situazioni, diciamo. Concordo. Lo preferisco di gran lunga, te l'ho detto. Ma ti stavo dicendo, oltre a 5005 avevi anche un presidente di cui non mi ricordo il nome, vero? Sì, il McKinley. Quello, diciamo, oddio, non proprio nature, qualcosina gli ho migliorato perché anche lì era tribula, era necessario, però non mi sono fidato a questi trimmer minuscoli, poi ce n'erano due, uno per la bassa potenza in AM, uno per l'alta potenza, cioè, ti spiego, uno era per la modulazione in bassa potenza e uno alla massima potenza. Io l'ho toccato appena ho sentito un leggero indurimento, ho mollato tutto, no? Non mi fido. A crepparmi un apparecchio nuovo. Ha migliorato molto però, però era tipo radiofonica la modulazione, mi hai detto, molto da speaker di radio. Sì, forse anche dovuta magari sicuramente al microfono. Sì, si avvicina molto alla, molto simile al 3009, dai. Comunque, bottega, per quanto sia un baracchino banale, c'è, non ha potenze esagerate, non ha autoascolto, non ha eco, anzi per fortuna non ha eco, no. Però diciamo che rispetto, che ne so, ai 48, quello lì è molto più selettivo in ricezione, cioè questo lo puoi lasciare a casa, puoi avere stazioni anche fortissime, che poi, detto tra noi qua, non c'ho nessuno vicino, il più vicino è un chilometro abbondante, 1,2 km mi pare l'avevo misurato, quindi non hai problemi di battimento, puoi andare su altri canali e modulare. Modulazione, sì, esce benino, già di fabbrica, poi se gli aumenti il trimmer dell'M non te ne dico, però questo è, l'ho voluto per portarlo in macchina già, per non avere problemi in caso di controlli, vabbè che, a meno che non trovi l'esperto, ok, devo andare in bagno già, ti trovo dopo. Dai, mi assento anche un attimo, dai. Dai, a più tardi nel caso, se no ritieniti salutato. Ciao ciao. Andare. Marco, sei rientrato? Sì, vediamo se ho sbagliato Mike, no. Certo. Spostalo, staccalo, se no guai. Sì, perché qua adesso c'ho il mazzi di Mike in mano. Aspetta, uno al 5,5, uno del 3009 originale, che è marcato Star, lo sai, marcato Star, come il dado. Uno lo Star, che è. Spiega, perché i Superstar nuovi, l'altro, il vecchio 3009 si chiamava Superstar, tutto attaccato, invece qua c'è scritto Superstar, ho capito, e quindi qua Star ci hanno messo. Una forma particolare anche rispetto al classico a saponetta. Ma il presidente quanti watt eroga? Fammi ricordare, non molti, 12 amp, tipo 20 o 22 fm e altrettanti in SSB. Ah ok, beh comunque quello più potente è il 5005, giusto? No, di tutti è il 9009, 15 amp multi, 30 modulati reali, no OPEP, poi roba di 50 o 60 fm e altrettanti in banda laterale, 60, 60. Non avevo contato l'altro, 9009. Sì, ma anch'io non riesco a contarli tutti, ogni tanto me ne dimentico qualcuno, ma tutti uguali, insomma, 6009, 9700, 9009, li cambiano la buccia, la forma, poi la scheda, le funzioni, tutto uguale. come le macchine, no? Si aggiungono qualche option e la spacciano per nuova, dai. Eia. Adesso sto, faccio un'impostazione, per stasera lo uso così, se entro pure, se più pulisci la roba più è sporca, cioè questo MB25 è pulito, tutto pulito, l'altra volta è tutto, sembrano sputacci, di come parli. Eia, ma dai, cioè, lo stai usando l'MB25 cablato oppure no? Se vuoi te lo faccio sentire, qua, mi lo stavo tutto più, pare, era chiuso nell'armadio, da dove entra la polvere? Prova a attaccarlo, dai. Marco. Vai, Franco. Esatto, vedi un po', ho cambiato antenna adesso, vai. Allora, premi 2 secondi di muta. Toccato qualcosa, intorno al 7,5, modulato 8 pieno. Come poco fa, così è. No, allora se usi l'ultima potenza che hai usato, prima eri 8 pieno, modulato 8,5. Ricordati, 8 pieno, modulato 8,5, se hai lasciato la stessa potenza, adesso sì, 7,5 modulato 8, c'è cioè mezzo Santiago di differenza. Quindi con questa antenna rende più di quella frusta lì. No, siamo lì, è una cosa, la differenza minima fra a questo smitter. Vediamo da Gianni, c'è uno smitter, vabbè, analogo. Gianni? Ciao Fra, no, con questa, il segnale si è abbassato anche da me. Adesso non so se stai utilizzando la boomerang, sì, si è abbassato comunque. Sì, ma era più forte, è vero. Affermativo. Premi la portante muta, Fra. Allora, diciamo che sei 7 e 3 quarti, meno di 8, sì, tra 7 e mezzo e 8, prima eri 8 pieno, a portante muta, ripeto, a portante muta. Esatto, la differenza di mezzo di di guadagno, cioè, la radio comunque è pulita, va bene. Sì, la radio è eccellente, Fra, niente da dire. Poi non ho QRM, a me il QRM compare soprattutto quando tutti accendono le luci, quando si accendono i lampioni della strada. E oggi era pulitissimo nel pomeriggio. Va bene, Marco, lì, dai, riprendi che sto facendo anche una cosetta, dai, riprendo su lui. Fai, fai, saluta Emanuele se c'è ancora. Sì, è qua, lo vuoi. Ma Emanuele non lo sento più, cosa è successo? Ha cambiato QTH, ho sentito. Ehi, ciao Marco, no, lì non posso mettere più niente, dai. Lì sto davanti a mettere un'antenna lì, capito? Beh, in realtà lo sai che le leggi sono a tuo favore, Emanuele. Se proprio volessi metterla, nessuno per legge potrebbe dire niente. Poi che facciano casino in altro modo è un altro discorso. Però il condominio non si può opporre. Ma non voglio vestire le palle io, capito? Magari la metti, vedono questa cosa qua, col capo in facciata, e mi romperanno sempre i coglioni, quindi non voglio questa rottura di palle. Ehi Emanuele, peccato però, peccato. È una cosa interna che non si veda, tipo di polo, non lo so cosa inventare, cosa si potrebbe fare lì. Vabbè, vedi tu, dai, comunque. È un peccato però, va. Beh, ok, dai, dopo vediamo un po' più là, magari, se mi sale il pallino, la metterò. Vediamo un po', perché bisogna arrivare anche al capo condominio. Comunque, dai, riprendi con la tua amica che non ho capito, forse la profetta. Ciao Manuel, ciao, sì. Salutoni anche da questa parte. La soluzione già si trova, dai. Sì, ok, dai, rimango in quelli, dipende se vuoi. Vai che Marco lì. Cappa. Allora Gianni, ciao Manuel, sentirci allora, dai. Saluto a Franco. Gianni, questa è l'MB più 5, distanza dal mic saranno un palmo abbondante, un palmo, sì, un palmo, quindi fai che sia 20, 22, 23 centimetri, tono a 2, volume a 6, la radio naturalmente mi chiede in tutto aperto perché non avrebbe senso. Conta una cosa Gianni, che qua c'è il collo di bottiglia del trimmer chiuso per la M, capito? Quindi più di tanto, anche se alzo, non va. Com'è la timbrica? Sì, c'è un abisso dal palmare medioso a questo. Lo spettro di frequenza è molto più aperto, si sente la differenza proprio abissale. Fai una prova, prova a chiudere tutti i toni, vediamo un po' se riesci a smostare un po' le frequenze medio alte. Caspita, un abisso, addirittura un abisso. Io mi fido del tuo orecchio e tu già c'hai l'orecchio e l'occhio clinico. Allora, il tono è a 2, qua più di tanto non puoi fare. 1,5, stessa distanza dal mic. A 1, stessa distanza dal mic, però qua di botto da 1,5 a 1 ti chiude completamente i toni, cioè di botto ti abbassa tutti i toni. Guarda, lo metto a 0, così a 0 il tono, vedi un po' come va, stessa distanza al mic e boh. Sì, si sente una leggera differenza, lascialo a 1 che sembra essere ottimale, dai. Comunque, ti ripeto, si sente molto la differenza tra questo e quello precedente. Ehi, toni a 1, naturalmente non mi posso ascoltare perché fischierebbe, volume a 6 e batteria carica, questo te lo posso garantire perché l'ho ricaricata, è di quelle da 8,4, no? Però quando è carica arriva a 9, 9,5 anche. Vediamo se comincio a alzare 7 di volume, 8 di volume, 9 di volume e 10 di volume. Vediamo un po', stessa distanza dal mic. Ha cambiato? Allora, succede che praticamente ogni volta che finisce di parlare praticamente si alza la sensibilità del microfono e cattura praticamente i rumori circostanti, per cui non c'è un grande guadagno anche durante la modulazione. Ti consiglio di metterlo a 5 o a 6, adesso non mi ricordo la posizione precedente. Cioè, a livello, durante la modulazione non cambia assolutamente nulla, durante le pause raccoglie un sacco di rumori della stanza di quello che ti circonda, dai. Tipico, è la stessa cosa che fa Natalino. Cioè Natalino, anche se alza, siccome c'ha il collo di bottiglia e il trimmer chiuso della M, la modulazione bene o male resta tale, ma gli aumenta un bel, si sente la TV, tutto si sente, anche i rumori delle macchine che passano in strada. Adesso ho ripristinato tutto com'era. Per esempio, questo dovrebbe andare bene sul 5005, sicuramente le migliora tutto. Sì, sì, è proprio completa un altro pianeta rispetto a quel palmare medioso. È molto, molto radiofonica come modulazione, cioè proprio radiofonica nel senso di non della CB, capito? Ha quella timbrica molto radiofonica. Tu pensa che qua i toni arrivano a 10, solo che se vai oltre il 3 è tutto acuto, cioè c'hai solo CCC, modulazione così, improponibile. Era meglio curare meglio il tono in questo microfono, cioè fargli una, in modo che a 5 fosse l'ottimale, no? Ricco di medi, di bassi e di alti. Invece qua è molto dozzinale la regolazione del tono, infatti a questo livello è molto meglio l'MB+4, lo sai. Non è, diciamo che non è progressivo, dai. Come in teoria dovrebbe essere. Comunque ti ripeto, il suono è ottimo e la modulazione anche. È che, mamma mia, quanto mi trovo, che strano. Vabbè, adesso ho bloccato il PTT, vedi, mani libere. Mi posso anche masturbare a due mani e parlare. Sì, sì, c'è proprio un abisso, dai. Completamente diversa. A gusto mio, allora, il microfono originale chiaramente risulta molto più caldo, non è preamplificato, ed è praticamente, si avvicina molto alla tua voce naturale. Questo è molto, si sente che è amplificato, però ha una bella timbrica, dai, cioè molto, molto professional rispetto a quel barattolo che stavi usando prima. Lo sapevo io. Aspetta, Ah, è proprio lui. Un attimino. Ecco, lo devo allontanare, ho capito, dai. Lo devo allontanare dall'apparecchio. Porca paletta, guarda. Niente, non c'è niente da fare. Poi ti spiego il perché. Questo è il 5005 già. Non c'è niente da fare, autoascolta a zero. Prova a passargli il guadagno del microfono, del microfono da tavolo, non dell'apparecchio. Sì, 5. Guarda, l'importante è che non abbia alternato. Allora, io sto allontanando fisicamente, è necessario allontanare il mic dal 5005, perché ti spiego in breve, nonostante l'autoascolto sia spento, in AM c'è sempre un po' di autoascolto, non so se sia l'esemplare mio o se è così su tutti. Ecco, adesso sono stesse condizioni, il tono è 1, il volume è 5, l'ho distanziato dal baracchino, vedi un po' le differenze rispetto al 3009, a parità di microfono. Sì, adesso col guadagno a 5 del mic va meglio, prima stavo innescando. Ti devo dire, qua risulta appena un po' di compressione sulla modulazione. Sento la timbrica della voce appena compressa, niente, niente di così eccezionale, però si sente una leggerissima compressione. L'altro a livello di pulizia di suono era proprio il top, cioè questa sembra che ci sia una leggera compressione sulla modulazione. Ecco qua, sì, guarda come lo avvicino, vedi, sì, c'ha come un minimo di autoascolto. Poi proverò se lo fa solo con l'altoparlante interno o anche sulla colonnina esterna. E comunque a 5, la distanza, un palmo mio che è un be, vediamo se cominciamo a alzare, a 6, a 6, non posso andare oltre, dai, a 6, niente da fare, dai. 5, Marco, perché poi innesca. Sì, però cacchio, me lo devo mettere a mezzo metro dal baracchino, cioè, comunque il 3009 non si batte, dai, anche con questo mic, nonostante che abbia il coso chiuso, il trim dell'M è chiuso, vediamo se mi avvicino un po' ad ora. Dunque, un palmo, fai che siano 20 centimetri, 10 centimetri, sto parlando non troppo forte, 5 centimetri, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, va bene Marco, va bene. Il guadagno a 5 è l'ideale. Tono, meglio. Adesso non voglio tediare chi ha l'ascolto, ma non volevo far prove, ma ero curioso. Il tono a 1, un po' ambiguo il tono a 1, vediamo. Tono a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tono a 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si schiarisce. Dall'1 al 3 c'è una piccola differenza. Piccola, però non estrema. No, assolutamente no. Assolutamente no. Praticamente spariscono i toni bassi leggermente, i toni bassi che hai sulla posizione 1. Praticamente spariscono leggermente i bassi e vengono evidenziate le frequenze medio-alte. Figurati, come hai detto tu, non è lineare questo tono, cioè come vai più di uno già perdi i bassi, se lo metti lì c'è una porcheria. Voglio renderti partecipe, così a 5 di tono, così a 10 di tono praticamente dovrebbe essere tipo ultrasuono. No, è citofonica, vabbè, nel senso si sente che non è progressivo, comunque si alzano molto le frequenze medio-alte, non tantissimo, a discapito di quelle basse, dai. Però vedi la seccatura, se lo poggio sul bracciolo vediamo? No, è al limite, sento un po' di rientro. Che palle. Invece sul 3009 non dà problema alcuno, capito? 3009, quanto ho capito, è il migliore modulatore a livello proprio di modulatore di apparecchio. Sì, adesso c'è un leggero innesco per via dell'equalizzazione, come è tirato su il tono si percepisce l'inizio di un innesco. No, comunque guarda, a 1 fai il 2, oltre il 2 inizia a cambiare di brutto, dai. Sì, 2, ecco, distante tutto quanto. E comunque ribadisco, io il microfono da tavolo non mi ci trovo, sarà comodo, vedi, blocco il PTT, però non, che te devo dire, non so nemmeno perché l'ho comprato. E a quei livelli preferisco l'M95 ZG come il tuo. Sì, a 2 va bene Marco, è un ottimo compromesso. Ti ripeto, comunque MBP5 oltre 1009 non ce n'è per nessuno. M3009 più collo di bottiglia, va bene. Ok. Adesso ne straccio tutto, ributto tutto nella scatola. Ecco, è così, abbiamo finito. Potrei farlo lavorare per stasera, ma non so se mi tratterrò, devo fare niente di che, due cosette devo sciacquare, cose particolari, poi ti mando la foto. Oh, yeah. Beh, anche io devo fare roba, ci devo scendere la messa e spostare alcune cose, qualche imbarazzo che ho qua in camera, che stavo facendo pulizie e spostamenti. Quindi al limite, dai, magari ci aggiorniamo dopo. Ehi, a Gianni. Ok. Se no, come prima, ritieniti salutato, ok? Buon proseguimento di serata, buon tutto e alle prossime. Ciao, ciao. Ciao anche a chi ascolta, ciao. Andava, ricambio. E niente, dai, casomai ci aggiorniamo più tardi. Ehi, ehi, ciao a tutti, ciao. Casino. Che pasticcio. Sei tu che sono in cucina? Aspetta, c'è l'autosquelce che mi sta chiudendo metà, aspetta, che lo leggo, fai vedere il segnale 7 smitter digitale, però sono ripassato al 5005, poi mi hanno già rotto le balle questi microfoni amplificati, ne ho tolto tutto, tanto fischia e vaffangala. Io prima ho sbagliato canale, tutta contusoio, stavo facendo la scansione, ho sentito attenzione 10, blocco la scansione, premo la portante e se ne andrà l'udrenza, questo baracchino, boh, non ho capito come funziona questa cosa, cioè come togli la scansione se ne torna, l'ultimo canale memorizzato, quindi io ho bloccato la scansione, sono andato a rispondere e mi ha trasmesso sul 30 anziché sul 10, che palle, comunque sto usando il microfono Mediaman. Ciao Marco. Ciao Gianfra, appena entrato. Sono in cucina, adesso ultimo, sto iniziando, certo. Bene Gianni, vediamo se ti copia Gianfranco lì. Probabilmente sì, che c'ha roba buona lui. Vai Gianni. Sì Gianni, ciao, buonasera, ti sento. Non so se tu piuttosto ascolti me, perché io sono come al solito abbastanza potente. Ah sì, ma dimmi una cosa, c'è il gommino, c'è un'antenna gommino o un'antenna un pochettino più performante? Il segnale qua è, ripeto, abbastanza basso, si potrebbe aumentare con l'amplificatorino interno, ma è discretamente basso, Marco, è col gommino, quindi vabbè, considerando la frequenza, dai. Considerando la frequenza va bene, considerando che è 27, di più non si può chiedere. Con picchi di 7,5 Gianni, a momenti 7,5. Gianfra, prima abbiamo fatto, non volevo far prove, sennò poi stiamo sempre a fare solo prove in vari. Però mi è venuta la curiosità, mi ha sentito con Toni Medi, Gianni, con l'apparecchio suo. Toni Medi, un'esaltazione, i Medi, pochi bassi e pochi alti, allora ho attaccato un microfono, ho attaccato l'altro, l'MB più 5 mettendo i toni a 2 molto bilanciato, 1-2 dai, poi è troppo acuto, però non mi ci trovo, poi con questo apparecchio nonostante l'autoascolto sia disattivato, senti appena la vocina nell'altoparlante, se usi un amplificato tipo da tavolo, se la vicino al baracchino, a meno che non lo metti a un metro, si sente. No, non è un rientro a RF, me lo faceva anche in carico fittizio, che io ricordi. quando avevo il carico fittizio. Vabbè, pazienza. Però diciamo, per me va bene, cioè, è sempre una radio molto, molto comprensibile, pacata, non è né forte né debole, quindi puoi ascoltare tutto dal segnalino a te senza problemi, mentre invece con certi si consuma la mano fuori del volume, devi abbassare, alzare, abbassare, alzare, cioè un incubo. E infatti no, a volte è molto fastidioso fare ascolto in 27, proprio per questo, per la differenza di radio. Io volevo cercare un regolatore automatico del volume, ma costano una sparata veramente, perché si usano in campo musicale anche per livellare tutte le modulazioni, ma è troppo costoso considerando che si usa solo qua, ecco. Sì, un giorno ti dissi, dovrebbero inventare una specie di sorta di normalizzatore, non so, livellatore anche per la 27, cioè che uno abbia un alito di voce e un 48 colt che ti riporti allo stesso livello, così non devi stare col volume alza bassa. Ho notato una cosa, allora mentre parlavi, nonostante tu sia a fondo scala, questo vabbè a LED, quindi se segna 9.20 potrebbe essere 9.25, scusa, se segna 9.30, sei tra LED, no, 10, 20, 30, potresti essere 9.25, ma mi sposto sul 9, sull'11 non sento niente. È come, non mi accorgerei, se tu fossi su un canale adiacente non mi accorgerei che tu sei a fianco. Incredibile. Che apparato è? No, ma ci mancherebbe altro, oserei dire. Sarebbe veramente per me molto, ma molto, ma molto, ma molto, ripeto, preoccupante. Tieni presente che io sto uscendo attualmente sullo strumento, è un VAST. L'antenna è distante 30 metri, quindi fate il conto di cosa sta andando. Quindi l'emissione in ogni caso è eccezionalmente bassa, anche per questa frequenza, è un terzo di un omologato addirittura. Però questo dà, è un apparato di ultima generazione, come io te l'ho detto, ho rinnovato tutta la stazione. E questo è un portatile però di quelli, è un portatile da 160 a 160 fino a quasi 500, capisci al volo, tutto touchscreen, anche digitale tra l'altro, quindi c'è la 27 anche digitale. Ah, nuovo apparato, touchscreen, è come che fosse, potrei definirlo quasi un frontalino con la batteria? Diciamo di sì, dai, diciamo di sì, di questi ne ho tre, quindi di questi con questa caratteristica. Uno arriva da 0 fino a 3 GHz, l'altro da 0 fino a intorno agli 80, credo, intorno agli 80. Entrambi sono touchscreen, registrazione sia trasmissione sia ricezione, GPS, di tutto di più. Tutti i modi di modulazione ovviamente, oltre al digitale. E invio anche foto, questo in particolare invio anche di foto, di qualcosa di, ma cosa mi sembra un po' esagerato, lo fanno anche gli altri. E questi sono gli ultimi della stazione, proprio in ordine di cose. La potenza massima di questa qua è in AM pochi watt, perché non la usa nessuno in AM, neanche soli aerei, ma non so fino a quando, perché anche lì stanno, devono fare delle modifiche. Aia. Ecco qua, sì, io avevo in mente un apparecchio uscito nuovissimo che inizia col 7 se non sbaglio, non so se sia quello, però è talmente compatto che, come ho detto io, siamo un frontalino con la batteria, con display, poi fantastic, tutto touchscreen, eccetera. Ok. e poi esce discretamente in AM, insomma, discretamente. Beh, cioè, la voce tua è quasi sempre uguale, non... L'unica volta che ho sentito più cupo, più brutto, era con quell'apparecchietto PNI, serva molti, anche troppi toni bassi. Per il resto sei sempre uguale in modulazione. Oh, Gianfranco, purtroppo è qua il popolo ha fame, devo procedere, mio malgrado, dai. Non so se ci è rientrato Gianni dalla base, con la stazione base, è così, dai. E quindi devo andare in cucina. Ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto e sentiamo, dai, quando capita. Ok Marco, fate sentire un po' di più, perché sei un po' bandito ultimamente. Si sente raramente, ma anche io purtroppo posso anche a far cosa, cioè purtroppo meno male, se non c'è da farsi, e quindi cerco di conciliare la radio con tanti altri lavori e con questi tiracampati. Dai, se rientri dopo ci sentiamo e ci facciamo una chiacchierata, anche perché devo... Sto pensando di fare un progetto particolare per modernizzare un po' la 27, per renderla, non dico digitale, ma quasi. Pure la 27, oi, mamma mia, è il futuro che avanza, eh? Noi siamo morti, ti ricorda niente? No, sicuramente è qualche film, però sì, è così, noi poi siamo arrestati, gli italiani, guarda, ci dicono una cosa terribile. Io, quando c'è poco di preparazione, i tedeschi hanno i server già, c'hanno tutto un FM, c'è tutta una rete europea, guarda, sui canali alti senti sempre anche sotto il 23 trasmettere tale foto, tutte quelle cose lì. Insomma, sono un altro pianeta qua, siamo terra a terra. E poi la 27 non so quanto durerà ancora, la riutilizzeranno, riassegneranno quando non ci saranno più cibi disponibili, tanto nuovi non entrano, nuovi non... Chi è che vuole la follia di calare le antenne, azzuffarsi con l'economia, eccetera, non esiste. Bene, alla prossima qua. Ciao Gianfranco, ciao Gianni se sei all'ascolto, ciao a chi ascolta, ciao a tutti, ciao. Ok Marco, ci sentiamo, dai. Fate sentire. Ma avanti, se è rimasto qualcuno su 10. Tutto taccio. Ok, rimango così. A dopo. Sì, avanti Gianni, sei tu? Sì, all'inizio ti ho sentito molto bene, poi sei calato come eri quando eri dentro casa praticamente, o ti stai muovendo molto oppure la batteria ti sta lasciando. 8. Hai la possibilità di andare in FM Gianni? A me mi sta sparendo. No, scusate, sono qua a fianco. Gianni, qua sei 8, sei quasi migliorato di mezzo punto S, però da Gianfranco stai sparendo. Forse è proprio la posizione, nonostante sia vista Monteoro. L'hai copiato? No, negativo, decisamente peggio rispetto a prima. L'inizio è stato...